maestro di pena. Se non sei più maestro di pena, per vedere o bel vero piacere, la tua scorta fedele seguirà. Non sei più ministro di bene, se non...